Sei arrivata ballando sulla punta di stivaletti neri, seminando profumo di primavera, orbita ellittica nell'universo, la gonna avvicenda stagioni, gravità nel sole di sangue, galassia d'ossa. Prendi per mano chiunque respiri, nessuna allergia ti respinge. Prendi per mano chiunque respiri, nessuna allergia ti respinge. Col calore di una stretta millenaria. Il biasimo scioglie in innocua rugiada, quando della ricchezza fai gradito dono, anche la polvere brilla nei tuoi riflessi, amore non hai volto da baciare, membra d'aria o fruscio di rami, nessuno si è accorto dei tuoi capelli, cavalleria su dei colli finora brulli. Potessi abbracciare quel che di te credo, non manderei avanti l'inverno. Potessi abbracciare quel che di te credo, non manderei avanti l'inverno. Non manderei avanti l'inverno a sacrificarsi.